chilometri più avanti aspettano i gendarmi di Turayat, l'ultimo villaggio prima del deserto del Teneré. Si scende! Adesso i passeggeri vengono divisi in piccoli gruppi. Adesso li chiamano per nazionalità. 10 per volta! Senza le stelle continua a riflettere la luce della luna, troppo debole per vedere cosa c'è davanti. Il rumore del camion copre tutto, non si sente nient'altro a parte il proprio respiro. Il motore arranca, prima, seconda, prima, seconda, prima, prima, seconda. Non si va più di 5-10 km all'ora. In mezzo al cassone scoppia una lite. Un ragazzo lo sta minacciando sui vicini di posto. Punta pericolosamente un coltello agli occhi degli altri. La massa di corpi si allontana scomposta per evitare la lama. Lui si guadagna più posto per sedersi.

sparisce? Ritorna. Scoppia la solita riffa tra chi dice che un camion o un copertone abbandonato. Ritorna. Quello è un G! Diciamo. I G sono spiriti del deserto. Possono assumere la forma di un cane, una macchia sua, un'illusione. G, non portano niente. Credi che sia un fuoco nella notte. Senti le voci, vai a vedere. Cammini per ore perché hai bisogno di aiuto e alla fine non c'è nessuno. No, no, ma tu, quello non è un copertone, neanche un camion. Quello è un fuoristrada 45 carico di persone. Stanno cercando come stare il padre. Lo cercano da ieri sera, non lo trovano più. Viaggiavano insieme, poi quelli hanno rotto la sospensione, si sono fermati. Questi sono andati e tornati col pezzo di ricambio. C'erano 29 persone più gli autisti. Se non li trovano entro domani, questi rischiano di morire. Perché nessuno può andare a cercare, scusi. Il carburante basta soltanto per il viaggio. Direzione. Mi dice che non ce la fanno più. Magari una striscia di verde. Il resto è un mondo di sabbia. La pista dell'aeroporto è fatta di sabbia. Le case dei poliziotti sono fatte di sabbia. Le palme sono ricoperte di sabbia. Sembra da atterrare. Si scende per mezz'ora da una duna gigantesca e si entra in un pezzo di deserto recintato. I passeggeri saltano a terra come i pezzi di una cupola che crolla. Sono arrivati tutti vivi, ma è solo una questione fisica. Il morale è morto da giorni. Italiano? Ehi! Italiano? Italiano? Italiano? Vuoi sapere cosa è Dirkù? Te lo dico io cosa è Dirkù! Dirkù è una gabbia! Il sale e il tenere sono le sue sbarre. Ci fanno lavorare come schiavi, nelle case dei commercianti, nei palmeti. Laviamo pentole, raccogliamo date, impastiamo mattoni. Altri invece lavorano nelle saline o nelle cave di bicarbonato. Alla Maison du Ghana ci sono le donne. Loro il viaggio lo pagano in natura. Arrivano dalla Nigeria col viaggio pagato e l'impegno di restituire il denaro con il lavoro. Arrivati a Dirkù, scoprono qual era il lavoro. Qui una puttana costa 500 franchi, meno di un euro. Sono schiave che se arriveranno in Europa dovranno continuare a prostituirsi per restituire altro denaro, denaro, denaro. I disperati come me, prigionieri da loro, ce ne possono essere 10.000, forse 15.000. Signore, scusate, parlate inglese! Aiuto, signore! Mi mancano 3.000 franchi per arrivare in Libia, altrimenti i poliziotti non mi fanno partire! Come ti chiami? Cosa è successo? Mi chiamo Elvis. Ho pagato il viaggio, ma non sapevo di dover pagare anche la polizia, altrimenti non mi fanno partire! Guarda, te ne do 10.000, ma tu non... Ma se non mi lasci finire la frase... Corre verso il camion, gridando che la facciano salire. Guarda come tieni i soldi, guarda come tieni i soldi. I soldi, i soldi, mettili giù, mettili giù, mettili giù, mettili giù! Il poliziotto t'ha presi. Sono soldi suoi! Elvis lo guarda, protesta, spariscono dietro il muro di recinzione. Riappaiono. Elvis indietreggia, fissa il poliziotto. Sono soldi suoi! Il poliziotto mette le mani sui fianchi. Forse prende la pistola. La pistola! No. Sfila il cinturone. Il primo colpo frusta Elvis sulla testa. Il secondo sulla faccia. Il terzo sul dorso delle mani che cercano di proteggere la faccia. Dopo il quarto, il quinto, il sesto, Elvis baccolla, cade. Ma sanguina... sanguina dalla faccia, dalle mani, il poliziotto gli sta sopra, i colleghi ridono. Gli altri passeggeri guardano in silenzio. Elvis si alza, corre alla cieca, ma così va a finire nel filo di filo spinato. Il poliziotto non si ferma! Stop! Adesso cosa fai? Guardi verso di me. Potresti fare qualunque cosa, lo so. Ti riallacci il cinturone. Togliere Elvis da lì dentro non è facile. Ogni movimento sono altri grafi, ma... Elvis è arrabbiato, corre verso il commissariato gridando che lo facciano partire. Sparisce dietro il muro di recinzione. Erano soldi suoi.

dice in francese che tornerà con delle brioche. Bilà, vieni qua! Non torna. Vanno a sdraiarsi su marciapiede. Bilà, vieni qua! Sono finiti anche i materassini. Bilà, vieni qua! No! No! Vado a sdraiarmi sopra, non riesco a dormire. Guardo i corpi sul pavimento. E se anch'io considerassi tutto questo normale, un hotel a 5 stelle, un motivo di orgoglio nazionale,